dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro sfoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo. In questa serata romantica vivremo momenti dolcissimi. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Se ci baciamo mentre leggiamo, nulla di male c'è. L'amore troveremo e un brindisi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Se ci baciamo mentre leggiamo, nulla di male c'è. L'amore troveremo e un brindisi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Vieni qui e insieme leggiamo. Vieni qui e insieme leggiamo.